lentamente scivola la tua mano su di te, quel tanto che basta per trasformare ogni carezza in un gemito. Ti guardo accanata con torcerti tra le lenzuola umide, golosa ed implacabile, forse fammi male finché vuoi. Piaccia io sarà, per asciugarti il pane, vento arriverà per poterti accarezzare. Ma se vuoi, se tu vuoi, tra fango e neve impazzirò. Ammiro per come ti approcci a questi anni mutevoli, mi piace quel tuo senso pratico, la tua forza e l'ironia. I cieli neri intorno a noi sono soltanto nuvole e dolcemente soffi via, e niente può far male più, lo sai, il più grosso coro del mondo. Viaggia io sarò per toglierti la sete, e sole salirà per asciugarti bene, vento arriverà per poterti accarezzare. Ma se vuoi, se tu vuoi, tra fango e neve impazzirò, impazzirò. Fango e neve impazzirà, impazzirà. Per piaccia io sarò. Gracias.